Buongiorno a tutte e a tutti, ben ritrovati a 42 La Risposta in compagnia di Monica e Silvia. Ciao Monica, ma che bell'inizio, la Tosca e i Puccini, uno dei miei pezzi preferiti d'opera, ma quindi è una puntata su Puccini? Ciao Silvia, no, non è sulla Tosca di Puccini, oggi vi parliamo di un libro che in qualche modo però con la Tosca di Puccini, con quest'aria della Tosca di Puccini ha qualcosa a che vedere. Ok, vi svegliamo subito il libro che abbiamo qui con noi in questa puntata, è Just Kids di Patti Smith. La sua autobiografia è stata pubblicata da Feltrinelli nel 2010 e quindi mi chiedevi, Monica, perché la Tosca? Perché siamo partiti con questo stacchetto? Ecco, lo scopriamo subito nella prima pagina del libro che vi leggiamo, perché può essere considerato un po' il manifesto di Patti Smith sotto il suo aspetto sia umano che artistico. Scrive: mi sono svegliata di buon'ora e mentre scendevo le scale ho capito che era morto. Tutto taceva, a eccezione dell'audio del televisore lasciato acceso durante la notte. Era sintonizzato su un canale culturale. Trasmettevano un'opera. Mi sono lasciata attirare dallo schermo mentre Tosca, con impeto e patimento, dichiarava la propria passione per il pittore Cavaradossi. Era una fredda mattina di marzo e mi sono infilata al maglione. Quindi vissi d'arte, vissi d'amore, tutta la sua vita diciamo è racchiusa in questo verso ed è anche come noi abbiamo letto questo libro. Quindi una tensione costante verso l'arte e la ricerca parallela dell'amore, e proprio da qui vogliamo partire parlandovi di questo libro stupendo che ripercorre la ricerca appunto di un ideale per farlo diventare reale. Parallelamente, diciamo, arte e amore, è proprio lei che ce lo dice, come un po' togliere ogni dubbio sul significato della sua storia. Già Silvia, Sanremo si è appena concluso. Meno male. Infatti, noi vogliamo, contenta. Anche io, ma non diciamolo troppo, ma noi vogliamo continuare a parlarvi di musica, di grande musica, del rock and roll durante i suoi anni di massimo splendore. Il libro di oggi deve il proprio titolo, Just Kids appunto, a un aneddoto divertente. Patty e Robert, mentre passeggiano per la città durante l'estate indiana, incrociano una coppia di anziani che li osserva stupita. A un certo punto la donna ordina al marito di fotografarli e alla domanda di lui, che tra lo sbigottito e lo scocciato le chiede il perché, lei risponde: sono solo ragazzini, just kids. E questi ragazzini si incontrano, si innamorano e crescono insieme durante un periodo storico magico. Un arco temporale che va dal 1967 al 1975, dalla fuga di Patti Smith dal New Jersey, dove si era trasferita con la sua famiglia da Chicago, città in cui aveva trascorso la sua infanzia, per andare a New York, fino all'anno della registrazione di Horses, album entrato nella storia della musica e del rock. Ecco Monica, a proposito di questo favoloso album Horses, vi facciamo sentire il primo brano di questo disco, entrato appunto come dicevi tu nella storia, che è anche uno degli incipit a mio avviso più belli della storia della musica. Jesus died for somebody's sin but not mine. Gesù è morto per i peccati di qualcuno ma non i miei. Quindi vi lasciamo con Gloria, ci ritroviamo dopo lo stacco musicale. Jesus died for somebody's sins but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. Look out the window, see a sweet young thing hopping on the parking meter. ritrovati in studio, state ascoltando 42 La Risposta. Nella puntata di oggi stiamo parlando di amore e di arte e lo stiamo facendo attraverso le pagine di Just Kids di Patti Smith. Il libro si apre ricordando quella mattina del 9 marzo del 1989, giorno in cui Robert Mapplethorpe muore di AIDS. Robert è il suo primo grande amore, la persona eletta come amante prima e amico poi, compagno d'arte e ispiratore, arte intesa a 360 gradi, musica, pittura, fotografia, ideale. Lei sapeva che era morto senza che ci fosse bisogno che qualcuno la avvertisse. Se lo sentiva e basta, perché loro era un legame indissolubile che è mutato nel tempo, ma mai nella purezza e nell'intensità. Sì, e poi questa autobiografia è anche la promessa che Patti aveva fatto a Robert: scrivere un giorno la loro storia, una storia incredibile. Li vediamo conoscersi per caso per strada, appena arrivati a New York, ed è subito un legame folgorante. Appunto, si innamorano, vivono per anni di piccoli lavori precari, saltuari, in miseria e povertà, cercando un po' di mettere insieme il pranzo con la cena, rastrellando i pochi centesimi che riuscivano a recuperare appunto con questi lavoretti. Li vediamo, sono due vagabondi, puri, cuori gentili, senza soldi, aspiranti artisti. Li vediamo che cercano mobili tra i rifiuti, abitano in bettole fatiscenti. E addirittura Monica Patti ricorda che proprio appena i primi giorni in cui lei è arrivata a New York le capitò anche di andare a dormire negli androni dei palazzi che rimanevano aperti la notte, e di come le fosse difficile anche trovare i soldi per prendersi un panino. Quindi furono anni di mille spedienti e povertà, però anche insieme di illuminante creatività e appunto arte. Leggiamo: raggiungere in un'opera il perfetto equilibrio tra fede e compimento. Da questa condizione mentale promana una luce permeata di vita. Robert iniziò creando collanine e si innamorò della fotografia, e Patti dipingeva, scriveva poesie ispirate dai suoi miti Genet, Dylan Thomas, William Blake e soprattutto Rimbaud. E leggevano insieme libri d'arte e discutevano intere giornate e intere nottate di libri, di musica e di arte, appunto. Come già faceva lei fin da quando era molto piccola, quando era spesso costretta a letto da una salute precaria, il suo svago erano i libri e l'arte, e aveva già capito quella che lei chiama la rivelazione. Scrive Patti Smith, commossa dalla rivelazione che gli esseri umani creano l'arte, che essere un artista voleva dire vedere ciò che gli altri non potevano vedere. Insomma, Silvia voleva più di ogni altra cosa esprimere se stessa, esplorare se stessa. Sì, dicevi appunto, loro trascorrevano queste nottate, queste mattinate a letto proprio in un'estasi artistica, e lei ricorda una cosa che secondo me è bellissima: in una mattina in cui loro si svegliano, passano tutta la mattinata a sfogliare libri, a ascoltare i loro dischi, e Robert a un certo punto le sussurra: tu sei la mia famiglia. Quindi arte, bellissimo. Amore. Ecco, bellissimo, e ricordiamolo anche perché lo dice lei stessa, loro erano molto diversi. Lei timida, assolutamente non mondana, non amava le droghe e neanche beveva. Lui è il proprio il contrario: droghe, esperienze estreme, autodistruzione e ricerca ossessiva di un po' anche entrare a far parte di quegli ambienti mondani, noi li chiameremmo cool, come la Factory di Andy Warhol. E il loro fu proprio un percorso di prima di iniziazione, di formazione umana, artistica, e poi di crescita, appunto sempre in questa loro diversità, che possiamo definire un po' complementare, e sempre uniti, lo si vede proprio dai suoi racconti, uniti in modo mistico, spirituale, anche nella separazione, anche nella morte poi, e anche durante il loro percorso nei loro percorsi diversi di vita che hanno fatto. Lei stessa parla della loro natura duplice, dice: entrambi racchiudevamo principi opposti, luce e tenebra. Ecco, una perfetta alchimia, Monica, mi pare. Leggiamo da una parte del libro: cominciammo a farci più regali, cosucce che costruivamo di persona o che recuperavamo nell'angolo polveroso delle vetrine dei robi vecchi, oggetti che nessun altro voleva, croci fatte di ciocche di capelli intrecciate, ciondoli ossidati e haiku d'amore scritti su cartoncini adorni di fiocchetti e stringhe di cuoio. Lasciavamo bigliettini, dolcetti, cose, quasi potessero tappare un buco, riparare un muro in rovina, colmare la ferita che entrambi avevamo allargato per far posto ad altre esperienze. E possiamo dire, Silvia, che questa è anche una grande storia di come si possa cambiare come persone, di come si possano prendere strade diverse, crescere insieme e cambiare insieme in modo diverso, eppure riuscire a restare uniti, mantenendo un legame unico, speciale, indissolubile. Sì, pensa quando anche lui le rivelò la sua omosessualità, poi lei ha avuto anche molte altre storie importanti, eppure furono sempre vicini in un meraviglioso rapporto di amore, cura, rispetto, protezione, fiducia, ispirazione reciproca, uno la guida dell'altro. Poi, come dicevamo, ricordavamo prima, fino alla malattia, anche durante i deliri un po' ossessivi di Robert, appunto dovuti all'eccesso di uso di stupefacenti. Pensa che un giorno lo trovò davanti al lavandino del bagno in un totale delirio personale, mistico, coerente, in cui diceva: ti amo, ti odio, ti amo, ti odio, ti amo, ti odio. Ecco, nonostante tutto, restare uniti, ecco, io la trovo una cosa commovente e anche molto rara. E poi uniti a sfidare il mondo, un po' come recita uno degli ultimi capitoli, assieme ciascuno per la propria strada. Bellissimo, Silvia, ma che dici? Ascoltiamo qualcosa? Sì, dai, ci ascoltiamo un gran pezzo. Ti do qualche indizio, non te la canto perché non sarai in grado. Però potresti anche provarci, ripeto, Sanremo è appena finito. No, va bene. Impossibile. Però ti leggo, ti recito il ritornello, sono sicura che la conosci. Outside of society, waiting for me, outside of society, is where I want to be. Beh, una caccia al tesoro musicale, sicuramente Rock and Roll Nigger. Ascoltiamocela, dai. Ascoltiamocela tutta. Bentornate e bentornati a 42 risposta sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1 FM e a questa puntata tutta dedicata a Patti Smith e la sua autobiografia Just Kids. Parlavamo di arte, amore, Robert Mapplethorpe, New York tra gli anni 60 e gli anni 70, Monica. Esattamente, la New York tra la fine degli anni 60 e gli anni 70 è una città dura, violenta, pericolosa, eppure creativa, dove si potevano realizzare ideali, rivoluzioni, dove si inventava l'arte, la musica. Sono anni magici e di grande fermento culturale. Vengono inventate mode, correnti artistiche, lotte per i diritti civili, nuovi generi musicali. Insomma, erano gli anni delle sperimentazioni, delle contaminazioni, degli ideali, della scoperta di un altro modo di vivere, scrive Patti Smith. La benevolenza che ci circondava fu la prova che il fato tramava per aiutare i suoi figli entusiasti. grazie e per Patty quel periodo ha rappresentato anche la crescita personale, una maturazione che comincia da un punto di rottura fondamentale, scoprire se stessi attraverso la scoperta dell'altro e capire chi si vuol diventare e soprattutto chi non si vuol diventare. Infatti leggiamo in un pezzo interessante: volevo diventare una poetessa, ma non avevo intenzione di entrare a far parte di quella loro comunità incestuosa. L'ultima cosa che desideravo era scendere a patti con le politiche mondane e sociali di un altro ambiente. E infatti il racconto di come arrivò a scoprire la sua passione per la musica fino a diventare la sacerdotessa del rock. Incredibile sono i racconti degli incontri in quel vulcano folle e creativo che era New York. Ad esempio, al locale Max conobbe Janis Joplin e pensa, la riaccompagnò, ubriaca fradicia, a casa e la consolò. Ti potrebbe mai capitare? A me no, sicuramente. Neanche a me. E soprattutto poi le capitò anche di essere consolata a sua volta da Jimi Hendrix, e poi le capitò di stare al tavolo con Andy Warhol o fare due chiacchiere seduta sugli scalini di un palazzo con Gregory Corso. Insomma, anche questo forse non ci può capitare. No, siamo un po' neoclassiche, per noi il passato, il meglio è già passato, ecco. Esatto. Comunque, a proposito di Warhol, Robert lo idolatrava, ma Patty non doveva stimarlo molto. Senti cosa scrive di lui. Per Warhol non provavo gli stessi sentimenti di Robert. Le sue opere riflettevano una cultura dalla quale io volevo tenermi alla larga. Odiavo la zuppa e provavo poco interesse per i barattoli. Preferivo un artista capace di cambiare il suo tempo, anziché rifletterlo. Ecco Monica, questa mi pare una riflessione molto molto interessante, soprattutto perché ci aiuta a capire quale fosse la grande ispirazione di Patti Smith, cambiare il mondo. E anche in quest'ottica vivere in povertà al Chelsea Hotel ha rafforzato la sua aspirazione, tanto da renderla una vera e propria convinzione, uno scopo di vita, un ideale e appunto una convinzione che le fa accettare anche di patire la fame o di vivere in condizioni molto molto precarie. Però come dicevamo prima, a proposito di lei che non era mondana, che rifiutava comunque di scendere a patti con un mondo insomma dell'arte eccetera, cambiare il mondo, attuare una rivoluzione sì, ma a modo suo, e il suo modo era quello di partire da una rivoluzione interiore che per lei era l'esperienza indispensabile e necessaria per qualsiasi altra rivoluzione da poi agire nella società fuori. A proposito di artisti che pativano la fame di Chelsea Hotel, beh, questo luogo era un po' l'ombelico di quella New York mitica, attraversata da poeti, musicisti, scrittori, personaggi maledetti, creature divine alla ricerca di qualcosa. Qualcosa di mai inventato e mai pensato prima di allora. Anche loro si ritrovano a vivere lì in quel palazzo insieme ai mostri sacri che ci abitavano, che lo attraversavano, come appunto Gregory Corso, Allen Ginsberg, Burroughs e addirittura Dalí, che un giorno si fermò di fronte a Patti Smith e, accarezzandola sulla testa, le disse: sembri proprio un corvo gotico. Anche questo direi che non ci capiterà. E dicevi, questa New York mitica intorno al Chelsea Hotel, insomma, questo si può chiamare un centro del mondo. Sì. Ecco, loro proprio in questa dimensione maturano come artisti. Patty si consacra come appunto la sacerdotessa del rock, quindi entra in questo mondo e diventa quella che poi noi conosciamo. Robert invece insegue la sua ossessione per la fotografia tra ritratti nudi, fiori, insomma ha spazzato un po', sempre in modo molto, come se fosse il suo scopo di vita. E questo libro lo possiamo vedere anche un po' come un grande, generoso regalo che lei ci fa, perché ci fa entrare nel suo mondo, ce lo fa vedere attraverso i suoi occhi, non solo attraverso la sua musica, e ci fa entrare proprio nei suoi affetti più profondi, nelle sue speranze, nei suoi ideali e anche nelle grandi perdite della sua vita. Sempre con la costante di questa tensione, di questa volontà di vivere un po' come nei suoi sogni di bambina, vivere d'arte e vivere d'amore. Vedi, Monica torna in continuazione. Esatto, e per concludere, Silvia, ti faccio una domanda un po' così, spinosa, che però magari ci aiuta a riassumere un po' la puntata di oggi. Secondo te, quale rapporto c'è tra arte e amore, e perché, in che modo le persone e personaggi di questo libro possono rappresentarlo? Una domanda facile, qui è facilissimo rispondere. Certo. Esattamente. Pensavo, quando si ama, Monica, voglio dire, quando si ama veramente, si ama, non si ama mai solo una persona. Amando si costruisce una serie infinita di concatenamenti amorosi, costellazioni, intere costellazioni, tutta una macchina desiderante che ingloba la persona amata, il suo mondo, il suo personaggio. E quindi, Monica, che cos'è scrivere, comporre, fare arte, fotografare, se non produrre un nuovo paesaggio, un nuovo mondo? E questo, diciamo che in questo senso amore e arte sono forze produttive, costruiscono mondi e ce li fanno per abitare. Concordo pienamente, Silvia. Purtroppo però siamo giunti al termine della nostra chiacchierata odierna e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo e vi lasciamo con un ultimo pezzo della grande Patti Smith. Concludiamo con Glitter in Her Eyes, quindi buon ascolto e ci risentiamo sempre su queste frequenze mercoledì prossimo. Ciao a tutte e a tutti. Ciao.